binario 10, ascoltate doppio rum che chiama cambio. Attenzione, attenzione, canale 10, cambio. Binario 10, cambio. Santiago 9 Radio 5, come sempre. Abbai da Roma! Ula! 9-10 Radio 5. Va bene, va bene, infatti qua stazionale non ce n'è, perché se sarebbe acceso api. No, no, stai andando benissimo alla grande. 9-10 Radio 5, adesso bisogna vedere quando parti giù da Porto Torres e com'è la situazione, capito? Ehi, ma io sono sempre di mattina, quindi non mi sento. Ma vabbè che tu adesso stai lavorando, mi stavo dimenticando, vabbè, comunque va bene, va bene, dai. Quello che abbiamo trovato, il tipo che c'era al montante è scattolato. Non passava, per quello che ho fatto per mettere la rondella che non passava in mezzo, e vabbè, già non fa niente. L'importante è che faccia massa, che vada bene, non problema. Rondella non ne ho messo qua, passava, e rondella non ne ho messo. Sì, vabbè, intanto quella è quella piccola, ma se poi c'è il montante, se hai filettato sopra il montante, cosa le fa? Tutto c'è stato la macchina, perché c'è l'ho, perché ce l'ho. No, già va bene, già, vai tranquillo, sei più di 9 Radio 5, perfetto, ok, ci sentiamo dopo, devo fare un paio di telefonate, via, già, va bene, dai. Ci sentiamo dopo, devo fare un paio di telefonate, sì Giuseppe, faccio un paio di telefonate, ci sentiamo dopo, ciao, ciao a tutti e due, ci sentiamo dopo. Aspetta, passate il microfono. Aio Gianni. Io cantate voi. Tu sì che vale. Per carità. Beh, finita le cose. C'è anche l'accompagnamento, avevi mi già. Cosa? Avevi anche l'accompagnamento, il ritornello. Lo so. No, come facevi a sentirlo? Ho sentito. No, era un altro baracchino che stava trasmettendo. Ah, no, io l'accompagnamento ce l'avevo là accanto. C'era mia moglie che stava cantando lo stesso. C'era un altro nessuno che ha detto che a cantare, così almeno per criticare la parte. Fare una, come si dice, una cosa buona, vedete, funziona. Sì, si fa. Per togliere fuori dal guscio le persone. Ah, ma io ho acceso adesso. Cazzo, via. Andava bene. Ma tutto a posto? E niente l'ordine. Se chi si cappuccia a buccio, chi si va a posto, lo mettiamo a posto. E se non rimane così? Ho piantato la penna stamattina, in mano. Hai fatto il buco? Sì. Io vorrei farlo, ma ho paura che poi non passo da nessuna parte. Come non faccio da nessuna parte? Vabbè, dove non passi non passi, come fai lo puntino? Io se devo andare nei garage in passo, cos'è il tempo? Ma passo la penna e poi passo, non è che un grosso problema. Emanuele, mi sa che non passo neanche solo col supporto dell'antenna, non passo. Dove metto, dove parcheggio la macchina, a volte lì anche dal mio suocero, ci passo già a pelo così, se metto l'antenna spacco tutto. Ah, che cazzo, come ci passo? La macchina è alta, sarà più, almeno 2 metri, più. Che c'è fuori strada? È alta, Figurati, la volevo anche sollevare, mi sa che no, ci sto ripensando. Metti il ruotino di dietro, una piastra, e la metti. No, ce l'ho già così dietro, ma non rende. Ho fatto le prove l'altro giorno, addirittura con la base magnetica li fa 10 a 0 all'antenna dietro, alla ruota di scorta. E che antenna hai messo? E tutti e due uguali, ho messo la PLC 800. Senza staccare una, proprio le provate tutte e due, messo, cambiato il PL e basta, dai. Col cavo così, volante all'aperto, fuori. E non rende. Come? E non rende. No, rende meglio la magnetica, rende meglio la magnetica. Perché se lo fate per avere, diciamo, una base riflettente, capito? Sì, ci vuole la capota, quella va montata al centro, la capota e è lì che c'è il massimo della resa. Il retro sì, funziona, lo uso quando facciamo fuori strada per parlare con gli amici e basta, va benissimo. Però se vuoi potenza devi metterla sul centro capota. Io ce l'avevo al centro e poi un giorno ho sentito sentivo un rumore strano nella macchina. Ma che cavolo sarà, mi sono alzato, guarda per niente. Poi non ci ho pensato, sentivo come oscillare qualcosa. E a un certo punto un giorno c'è andato a portatore, ho sentito un colpo forte, mi sono fermato, perché era l'antenna che c'era scesa. E attorno all'antenna era tutto arrugginito, e praticamente si è frantumato tutto là. La parte solo che c'era attorno all'antenna, poi tutto il resto della capota non c'era niente. E allora ho dovuto tappare due buchi, ho fatto la parte. Quando fai il foro ci devi mettere qualcosa che antirruggine, almeno nel bordino della lamiera, poi sotto la capota io dovete addirittura graffiare per fare il contatto bene quella lamiera ceghettata, là che c'è l'antenna. Allora, quell'antenna lì l'aspetta da 15 anni, altri guai, e me l'ha fatta esattamente in punti, che quello che fa gli impianti, stereo, eccetera, eccetera, l'ha montato tutto il cielo per metterla. Praticamente ha fatto coi pentati tutto qua con il filo, gli ha messo quel nastro gommoso per non farlo muovere. Lui vedere che impianto ha fatto, mi ha tolto tutto le cose, come si chiama, la plastica del montante, che così lì l'ha tolto, gliel'ha fatto passare bene, tutto isolato, tutto fatto bene. Come l'ho piantata, uno e uno di stazionare, ma come uno. Perfetto. Oh, questa antenna che ho costruito è lo stesso. Adesso l'ho messa direttamente all'apparato, senza spezzoni né niente, senza quadratore. L'ago non si muove. Si muove appena appena quando scendi tipo 120 sotto o 120 sopra, si muove tipo 1,1, 1,2, non di più. Buonasera. È buono, avanti. Gianni, guarda che ho mandato un messaggio su WhatsApp, controllo un attimo. Ciao. Ciao Fra, ciao, buonasera a tutti. E beh, tanto, già poi mi dirai, vabbè, dall'antenna se va bene, se hai stazionario, boh. Cioè anche tu l'hai piantata? Quando l'ha piantata? Sì, a lui l'ho piantata, è un casino perché abbiamo bucato in un punto sbagliato. Praticamente lì dove di solito lì alla dove metto l'antenna radio, ecco, dovevo spostarla poco più indietro, perché lì era proprio capota e capota, invece lì c'era la capota più un lamierino che faceva spessore. Qua c'è la tomattana per farlo. Per fare il buco? No, per passare il coso dell'antenna, solo un attimo. Già ci sono, Luca, guarda che ti sei dimenticato, sulla capota, sentivo vabbè, come la vede? Mettere al centro non ce la facevi, già. Beh, dai 10 minuti poi vado. Buonasera. Ciao Cla, buonasera a te, famiglia. Come va? Ehi, la pietra, già, come? Una tappa di olive stasera, anzi addirittura li ho anche portati. Li ho tagliati a 3 metri o a 4 metri. E poi i rami alti abbiamo raccolto lì perché erano attaccate. E basta, dai. Poi stasera c'è anche una messa del padre di un mio amico, di una mia amica che è morta un mese scorso. Non sono potuto andare a funerale, sono andato stasera alla messa, dai. Anche quello dovrebbe bisogna fare. Ma io sono un po' rauco, ci hanno un po' così. Ancora, ma già passa. Gappa. Il messaggio ce l'hai letto? Sì, ti ho risposto. Vedo un po' se riesco a svincolarmi, che ho detto di vincolarmi, perché abbiamo i bambini qua, capito? Abbiamo detto di che eravamo liberi, quindi li teniamo noi. Vediamo. E vabbè. Vediamo che ti dica. Fammi sapere se è fattibile, se no un altro giorno, pazienza. Dove volete andare? Vicino qua? No, tu, questa volta decidi tu, io non prenoto da nessuna parte. Ma volevo andare allo spedente, come si chiama? Gianni. Lascia perdere, quella è una cosa di venerdì, non lo so, io sto aspettando una risposta da Stefano. Capito? Non lo so, quella è un'altra cosa, io sto parlando sabato, non venerdì. Forse non ho capito, ma è roba tra di noi, in famiglia o cosa? Sabato noi, come siamo andati l'altra volta, sabato, non venerdì, no, sabato. Vabbè, io pensavo che fosse organizzato per sabato, no, e allora non ce la faccio perché io volevo svincolarmi convinto che fosse quell'altra storia, con i CB. No. Perché sabato non ci sei? I bambini abbiamo, sabato e domenica abbiamo i bambini a casa nostra, qua, capito? Quindi non si può, ho capito. Vabbè, allora sarà per la prossima volta. No, per venerdì non so niente. Per venerdì non so niente. Non so niente per venerdì. Io volevo uscire sabato con le mogli, capito? Non avevo capito, scusa Cla, avevo frainteso, dai. Ma infatti, mi ha detto, ma io posso ancora dire, ma la cosa, non ho capito. Lasciamo che ce li avessi venerdì, i bambini, capito? E quindi sabato eri libero. E vabbè, vediamo un po', sarà per la prossima volta, allora. Comunque, se ci dovessero essere dei cambiamenti, fammelo sapere. Non credo perché hanno già prenotato i genitori, quindi si passano un weekend tranquilli e noi teniamo i bambini, capito? Ho capito. Vabbè. Allora niente, adesso io dico Anna che non c'è niente da fare. Pensavo che ti svincolavi, capito? Vabbè, no, per venerdì, per domani non so niente. Domani non so, cioè domani è giovedì. Per venerdì non so niente. Bisogna vedere cosa, se c'è Stefano, se non so, non so c'ho niente. No, ma non è che, perché io pensavo fosse quella la storia lì, poi non c'è problema se non c'è uscita tra CB, ero convinto che fosse quella, capito? No, non è venerdì, sono andato messaggio per sabato, ci uscivamo, capito, visto che sono già due sabati che non c'è una parte, si chiama Franco, ci andiamo, come ho fatto l'altra volta. se tu non vai da nessuna parte, mi sento la giura. Come fai? Purtroppo abbiamo dato, purtroppo, oddio. Quando si può fare un favore si fa, dai. Almeno anche loro si rilassano un po'. Che sono i figli di della Sedariana. K. Che ne torna due. Due, una di quattro e uno di sette, di sei. No, non ho capito. Vabbè. È che non vuole Anna portarli fuori, no? A portare anche i bambini? Non credo, prova a parlare, ma non penso, perché poi anche i bambini vogliono stare qua perché c'è Carlo, c'è il padrino, gli piace giocare anche con Carlo. Vero, dai. E vabbè, i bambini sono così. I bambini sono così, e vabbè, dai, fregate. Bravo di me, rimanga a casa per questo sabato, va. Tanto, mi sembra che fine settimana abbia dato anche brutto, boh. Freddo, c'è freddo la sera, mamma mia. Stamattina sono uscito presto, alle 8:30, 9:20. Sembrava che avesse, che aveva piovuto. Proprio tutto bagnato, l'intonarito farà. Si è sentito qualcuno sotto? Qualcuno vuole entrare? Brecco, avanti. Ciao, buonasera, ho sentito Claudio, chi è l'altro? Non ho capito. Ehi Franco, chi sei? Roberto? Sì, ciao Franco, ben sentito anche a te. C'è qualche altro? Non ho fatto ascolto, ho visto solo Claudio. Sì, ben sentito, ci dovrebbe essere anche Luca e Gianni, doppio Roma. Vabbè, saluto a tutti gli altri. Ok, vai Claudio. Ciao Roberto, buonasera, ben sentito, io sono stato 10 minuti. Ma sono preparato, vado a portare il cane, siamo poi si fa tardi, dove c'è la partita. 8:30. E poi c'è un mal di gola allucinante. Ok, adesso pure io adesso non fido una settimana con questo mal di gola, sta guarendo ma ce l'ho sempre. E anche in campagna c'è anche mio padre senza voce, arruito Sì, ma perché è tempo, capito? Ti ho detto c'è l'Anna che non sta bene, infatti non è uscita per niente, meno male che c'è l'aria a casa che è in ferie una settimana e quindi sta parlando lì a fare la spesa eccetera, se no toccava a me. E mi sta contagiando, ma se non mi ha già contagiato, però non è raffreddore di quello, proprio mal di gola. Adesso tu immaginati, qua ci sono 23 gradi, allora devo uscire a portare il cane, devo coprire bene, capito? Ho rotto le scatole, vabbè, anche questo bisogna fare. Vabbè, Roberto, a posto. Ehi, a te sei trovato il figlio nuovo qua. Capito, da usare gli animali sono così, sono come un figlio. No, ma questo lo puoi chiamare proprio figlio, perché non si tratta un attimo da noi, capito? A casa è un gatto, lui sta sempre con il gatto, tranquillo, non rompe le scatole, però c'è quelle ore che vuole uscire, vuole stare in giro, come ce ne andiamo a dormire, sta vicino a te sotto il coso del letto, lì vuole portarle la sua brandina, un bambino piccolo, Il bello di questo cane, di questa razza di cane perlomeno, penso che siamo tutti così, è che prima alle 9:30, alle 10, lui tranquillo che non esce la mattina, non è come quei cani che alle 6 sono già nella porta che vogliono uscire, no, dice 9:30, 10, anche 10:30, se lo lasci dormire dorme tutta la mattina, ed esce adesso, alle 7:30, alle 8, capite? Non gliene frega niente, lui deve dormire, ma dormire russende, barosanto, russa, mamma mia. Peggio di un bambino piccolo. Ok Franco, avanti. E mi sei visto la foto da qualche parte? Chi è che c'ha sul profilo di chi è la foto su WhatsApp, Cla? Non so se è su di Anna o Ilaria, non so. L'ho visto, bello massiccio, E quasi 40 kg invece. Poi da con Ilaria, l'amore mio, bello di mamma. Bello di mamma, bello di nonna e bello di nonno. È un coccolone che non viene bene a dirlo, vabbè, si mette a pancia in alto a grattare la pancia, un bambino, è un bambino che non viene bene a dirlo, proprio un bambino, e dove, così, vedo tutti, vabbè, avanti Gianni. Franco, in che zona sei tu che stai modulando? Infatti stiamo parlando assieme, dicevi a me? Sì, avevo capito, volevo dire in che zona sei? Sono qui vicino al Palazzo Giallo. Cos'è il Palazzo Giallo? Ma il Palazzo Giallo di dove? Di Maglione. Sì. Sì, ma che zona, non lo so, se non mi dici dopo. Via di Sicilia, vai. Ah, lo stai arrivando fortissimo qua, sei quasi 9 più 20. E anche tu sei forte, anche tu che zona sei? Io sono zona vicino a Claudio, sono vicino allo stadio. E infatti siete simili di segnale, siete molto forti tutti e due. Sì, ma adesso ti metto, devo rafforzare il foglio del bestiame se vogliamo entrare qua. Mi ha avvicinato, mi? No, anche Natalino non scherza, Natalino è oltre 9 più 20. Ciao, buonasera a tutti, là. Anche se non mi sento tanto bene. Che sono tutto messo male. Ciao a tutti, ben sentiti, là. Ciao Natalino, vai qua. Ciao Tatari, buonasera, ben ascoltato. Franco, farò bene, sì. Benissimo, anche Natalino già. Ho messo a posto tutto l'altro giorno, avevo un piede in corto, mi ero verso caldo, ho detto, ma adesso 9 più 20 il suo segnale, 9:15:20. Non c'era anche Gianni, però no, non riprende, non so, ok. Riprendi tu, Fra, vai, che io intanto vado a prepararmi, già sono qua. Scusa un attimo, Fra, tu cos'è questo, è 4:30 o 4:40? Questo è il 4:40, con sempre MC60. Ehi, ok, sempre bomba. Fortissima, vediamo un po', la chiamata Gianni, se c'è Gianni, avanti Gianni. E neanche Luca, Luca ci sei? Boh, si sono spostati di canale. Perché stavamo parlando, hanno fatto il foro sulla cappotta, oggi hanno montato l'antenna sulla macchina. Eia. E che antenna c'hai tu, Franco? Questa che ho appena autocostruito, ho fatto una Game Master. Quella con la bobina sotto, ho fatto la bobina. Sì, sì, ho preso mi hanno dato uno schema, l'ho seguito, diciamo, quasi alla lettera. Qualche sbaglio l'ho fatto, però vedo che rende bene. Proprio stazionario è zero, cioè uno si muove appena l'acqua sul canale di altri, ma tipo 120 su o 120 sotto. Ma no, sta andando alla grande, ok. E che apparato stai utilizzando, se lo vuoi dire? È un Super Galaxy, vecchio, è da 40 anni, 35 anni. Ma cos'è base? No, è con l'alimentatore esterno. E microfono? Il microfono è uno Shure. Ah, ottima radio, bellissima, molto chiara, piena, corposa, dai, bella radio, complimenti. Ok, Natali, basta non fumare più, non ti vengono le mal di gola. Davvero? No, non fuma più, sono influenzato, sono più di una settimana messo male. Lo so, tutti ci stanno passando, io sono 15 giorni, allora prima c'era raffreddore, poi la tosse, ero 2 giorni non riuscivo neanche a parlare, talmente era brutta, proprio bassa, come alzavo appena il tono mi faceva male. Ciao Luca, avanti. Ci vuole la supporta da lì, di plastica. E adesso domenica, con la scusa che vado a sparare alla Landrini, alla Cruca, me la faccio dare da quell'asino lì, la supporta, a vedere se va bene con il mico. Natalia, accoso poi c'è la figlia del mio padrino, Salvatore Panzevano, più sentito? No, negativo, non mi ricordo chi mi ha detto che c'è un'attività lì a Porto Torres, si è fatta un'attività lì a Porto Torres, tipo l'agenzia di viaggi mi sembra. Io l'ho visto di sfuggita, la Lido di Porto Torres, quest'estate mi sembra una volta, e basta, però poi non l'ho più sentito, ma non sta più entrando in banda radioamatoriale. Chi a me lo dice, cosa ne so io, c'ho appena questo baracchino, che più di 2 watt non posso munire perché sennò disturbo, infatti dovrò mettere mano, mi farò una Game Master senza radiali e senza niente, me la tirerò più su, perché sennò non posso usarlo. No, parlavo di lui, non di te, se sta più entrando, non l'hai più ascoltato. Ciao, non c'ho più nulla, non cosa ascolto. Sono rientrato. Ciao già. Io lo vedo ogni giorno, sono anche io Natalino. Lo vedo ogni giorno qua, si viene da noi a comprare il pesce per andare a pescare, cozze, eccetera. Viene sempre da noi. C'è un'agenzia di viaggio adesso. E dove ce l'ha già? Mi ha anche detto, aspetta, lì a Porto Torres ce l'ha vicino a Robertino, quello che vende pezzi di ricambio. Non so se lo sai, nella passeggiata. Ho capito, dove c'è Mameli sta dicendo? No, via Lungomare. Mameli, questo Robertino l'ha curato da Mameli, poi se l'ha messa contro il suo. Via Lungomare, cosa ti posso dire? invece aveva lista. Ah, ho capito, e come mai? Se stavo lavorando alla cosa, all'Enichem? Oh, lui così ha detto, così mi dice, se era più male non lo so, però mi ha detto una commessa che se faceva la prova gli regalava un viaggio. E questo ha detto, perché che cosa fai? Io ho l'agenzia di viaggi. Anche se l'aspetto non è che sia di uno che di un agente. Diciamo un po' di disorientato, beh, lo diciamo. Comunque guarda, è una persona, a parte l'apparenza, è una persona molto intelligente, se lo senti parlando in inglese rimane a bocca aperta. Io lo sento una volta a Natalino facendo un DX in inglese, che era bravissimo. Ah, ci conosciamo da bambini, è il figlio di mio padrino, ci conosciamo benissimo, è che lui si tratta male, è un po' disidratato, ma si, non si cura molto la persona, poi è diventato un buco ed è ingrassato, cacchio, non era mai così. Non so, io lo conosco da quando c'era la foto grossa, eccetera, andava a cagare da Natale, io me lo ricordo bene. Te lo ricordo, lo facciamo vedere a casa. Vabbè, facciamo continuare a Franco, se no monopolizziamo. Luca, ma mi hai chiamato tu Luca, scusa. No, Robert, negativo. Non ho capito che mi stessi chiamando. Vai Franco. No, anche io ho sentito qualcuno che ha chiamato Roberto, col bip. Se qualcuno vuole entrare, non lo so, canale aperto. No, volevo dare i saluti a Gianni da, come si chiama? Ma ne abbiamo parlato ieri, quello che lavora con me, di Leonardo. Ah, grazie, cosa cambia? L'ho visto, l'ho beccato proprio stamattina. No, ne l'ha detto, si riconosce? Sì, già ci è arrivato. Mi ha dato il cognome, ma io non lo conosco, gli ho detto il cognome, quindi. Però penso che sia lui. Sì. Già lui. E poi sapevo che lavora a Parigi, prima stava al movimento praticamente metropolitana e superficie, stava lì dove c'è tutta la stazione. Telefono un attimo per me. Kappa, sì, già ha cambiato parecchi posti. Kappa, non l'ho più visto. Io l'ho visto proprio in stazione, io stavo andando a prendermi la macchina e lui era lì, stava scendendo Alghero se non sbaglio, oltre ad Alghero. Ehi, ci conosciamo la ragazzina. Giochiamo a pallone insieme, insomma. L'abbiamo coperta tutti i culo. Beh, cose che si fanno, dai. Luca, vuoi riprendere? Sì, allora, stiamo leggendo qualche tablet. Me ne hanno regalato un po' per pezzi, ma mi sa che ce n'è uno che è della Huawei, bellino, e ci vuole tutto uno schermo nuovo. L'ho visto che costa intorno ai 120 euro nuovo. Nuovo. Dice, questo tipo quando si incazzava con la moglie lo sbatteva a terra. Non è che se lo sbatteva a terra, eh? No, dice se lo sbatteva a terra il tablet, non alla moglie, no. E io avrei sbattuto la moglie a terra, lo sbattato. Cosa l'ha fatto il tablet? Che non è a colpa. Secondo me può cuomare, Parlate in due. Ah, Natalia, secondo me può cuomare. E anche secondo me si è buttato il tablet, per vero. La moglie, il figlio, tutti li affaccia. E via. Adesso mia moglie oggi, se non mi tratta bene, siccome io sono ammalato, mi tiro una testata e la dromo. Tipo che regionalista? Perché diventa il colpo? Allora, e mi picchia pure, cosa devo fare Luca? Ah, oh, ciao Conce, secondo me è può comare. Avacura a terra, diciamo. Tu sei il pezzino che piglia goi più oggi. Vai, che concetto è bravo, vai. Cuocuomane. E cuocuomane, questa qui. Ah, pure concetto è cuocuomane. Ah, vero, E perché non lo sapevi? Ah, non lo sapevano. Conce, ma è vero che è cuocuomane? Luca, guarda che ne faccio questo. ma se passa la brintella, lo io. Davvero, Conce, si può cuocuomane. Canale dei pazzi proprio. Se non si macchina di voi. Via. Progaridate. Il mondo è bello perché è variato. Sì, che c'è Giuseppe Ranghi che ha fatto break, aspettate. Giuseppe, va. Cappa, Giuseppe. State salute, Franco, state salute a Giuseppe di Ranghi. Cavolo, mi dispiace, ma sento che parla appena appena nel QRM, ma non riesco proprio a tirarlo fuori. Lui mi sente? Non lo so, Giuseppe, lo senti tu a Franco? Giuseppe, attacca Giuseppe. poi ho il problema delle pompe di calore qua che mi danno questo QRM, un po' mi disturbano queste scariche elettriche e quindi quelli baci baci non li sento. Stava parlando, lasciatelo bianco, se non a... Giuseppe! Giuseppe, mi ascolti? Ciao Giuseppe! No, qua già arriva sempre lo stesso, dai! Mi ascolti sempre bene, sì? Qua. Il segnale è un po' basso, ma il radio arrivi abbastanza bene. Avanti, Natalina, hai copiato? Io l'ascolto, ma lui non mi ascolta perché c'ho due ratti io. Non arrivo magari al ghero, capito? Ecco, dai. Franco, tu lo senti? Nulla, no, io non... Sento che si muove un po' l'ago, qualcuno che parla, ma non riesco a capire nulla proprio, zero. Vabbò, scusate, sentirà a me, a Gianni. Avanti già. Chiedi se è liscio o se può attaccare qualcosa. Giuseppe, ma sei liscio? E allora attacca. Se sei liscio, attacca. Ha detto certo che è vivo, non liscio. Giuseppe, liscio ho detto, non vivo. Attacca qualche cosa, se no ti sentono male. Ha sentito Giuseppe? Fra, hai sentito? No, cosa ha detto? Di fare qualcosa, di cambiare l'antenna e fare qualcosa dalle parti delle Sicilia, Sicilia. Io dovrei metterla sul tetto l'antenna, probabilmente che l'ascolti. Se la metti sul tetto avete sparato. Beh, non è detto, perché mi detto tu lo senti, io no. Sto dicendo, io sto scendo con 2 watt, 1 watt e mezzo, boh. Se io alzo 50 watt a Village, mi intendi? Se mi sente Valerio. Se tu la metti sul tetto, arrivi sparato, arrivi più forte di me. Valerio l'ho sentito, allora giorno e lui mi ha sentito, eh. Franco, sicuramente Natalino è uno dei più forti che ti arriva, ovvero? No, siete tutti forti qua. Comunque Natalino è forse... Ma adesso ha attaccato anche Gianni, anche se stava andando un po' in saturazione già. È forte anche Gianni, eh. Comunque c'è anche Roberto. Roberto, lo senti a Giuseppe? Ma ce ne siamo dimenticati di te, Roberto, eh? No, ha chiesto un attimino di QRX. Ah, ok, dai. Sì, vabbè, la Natalino praticamente ce l'hai, si può dire, di fronte, dai. Però mi sa che sei più forte tu, Milu. No, lì, Natalino è lì, è vicinissimo a te, Natalino. Guarda, sono sicuro che le vostre antenne si vedono. Lo passo. No, Lu, sei più forte tu. Adesso ho attenuato il segnale. Metti la portante, Luca. Allora, tu sei Santiago 5, adesso attenuato. Prova, Natali. Arubassu. No, così sei Santiago 1, attenuato, Quindi il più forte è Luca. Minchia, se poi ci avessi commesso. Per Natali è lì, vabbè. Io sto uscendo, non so se da 5, 6 watt, 7 watt questo baracchino, boh. Prova, Gianni. Guarda, vedo io. Così attenuato c'è Santiago 1. Poi c'è la radio buona, adesso sei liscio? Sì. Prova attacca a vedere. Appaia, no. Quasi 6, 5 e mezzo, quindi così sarete più forte di Luca, così. Non so, quanti ne dà già? Quanti fa già? 80 a quello. Va bene, dai. Guarda quello piccolino che è in macchina. Esatto. Guarda, quelli sono micidiali, sono veramente ottimi. Ottimi lineari, piccolini, pompano. Ma boh, riesci a vedere, 7 e mezzo, dai. Un paio di passaggi ancora, poi vi saluto, se no la mia 25 per rompere le scatole. Luca, certo che c'hai un canale libero verso di me, spari bene qua. Guarda, io abito nelle casette in Canada, basta passare un giorno e vedi l'antenna, ma penso, vabbè, per la tua zona sono abbastanza vicino, perché io sono su, tu sei giù, ti prendo in pieno. Però c'è da dire che ho anche dei palazzi davanti, un po' rompono le scatole. Io tant'è non la vedo perché la mia parte da piano terra quasi, dai. Anche se arriva sulla base del tetto, l'antenna radiale, alla punta, dai. Però non vedo perché c'ho altri palazzi di fronte che sono più alti della mia antenna. Ah, vabbè, comunque arrivi lo stesso forte, non c'è, qua arrivi fortissimo, anzi. Sicuramente c'è qualche varco che ci fa passare bene, ecco. Va bene, ti la devi fare a gara con Salvatore, ma penso Salvatore è più forte di te, che abita lì, zona Cappuccini, lì dove non parla lo sento anche male, davanti è forte. comunque siete lì di segnale, dai, tu e lui. No, chi è Salvatore? Salvatore, guardiamo altro, ogni tanto entra a salutarci. E avrà antenne serie, dai. Prima di essere Radio Amatore la CD, tu hai diventato Radio Amatore e ci ha un po' abbandonato, ogni tanto entra. Sì, non so come fa di nominativo, non me lo ricordo. Salvatore! Sì, ma di nominativo come fa? Salvatore. Allora come me, vabbè, io alla fine entro come, con il mio nome, non è che sto via, capito? Mi sto pulendo il PTT, è un po' sporco. Vabbè, sai cosa, prima ci tenevo di più, il baracchino è qua, buttato, ogni tanto lo sporco, no, ma non lo uso più come prima, dai. Comunque già è un buono, dai, c'è qualcuno ancora, infatti mi chiedo, ma ancora baracchino c'è gente? Sì, sì, cavolo, da quando sono usciti questi tablet, computer, tricheballacche, molti l'hanno abbandonato. Già, ho detto che c'è qualcuno, ogni tanto ci facciamo qualche chiacchierata. Né più, né, del più e del meno parliamo, ma non è più come prima, prima già era più bello, dai. Secondo me si sta ripopolando, Ma la cosa che prima per tutta la crema, la salvi. Vabbè, comunque qualcuno c'è sempre, dai. Adesso mi sono preso i bollettini per pagare, vabbè, quello lo pagherò a dicembre. Cosa, no? La concessione, dai. Dicembre o gennaio? Dicembre per gennaio. Ho capito. Anno 2018, io ho tutti pagati, ce li ho qua, tutti pagati. E già mi rischio 2.000-3.000 euro di multa per, come si dice, per 12 euro. Certo, non ne vale la pena. Però basta che smetti per un anno, poi devi rifare tutto da capo. Ehi, abbiamo col telefono. Ripeti, è andata lì. Ehi, vai, non riesco a parlare. Non posso rilanciare neanche a Giuseppe che non mi sente, boh, chiamalo tu, Gianni. Giuseppe, mi ascolti, è a Franco, lo ascolti Giuseppe. No, Luca, solo Luca si trova lì, io mi trovo la parte più abbandonata. Hai copiato Giuseppe, non fa vita per tutto, riprendi, un po' più minata. Ehi, trovo anch'io, sto capito, dopo. Ascolta, ma cosa detto, mi sente o no? No, non ti sente. Vedi. Invece cosa mi ha sentito? Valerio mi ha sentito l'altro giorno. Non mi ricordo però se ero attaccato, Anzi, attaccato mi arrivavo un segnale di 7 al ghetto. Ma se mi decidi la metterla qua, io per l'antenna della macchina stavo rimandando, poi alla fine mi sono deciso, l'ho messo. Se mi decidi di un giorno andare e metterla sul tetto, guarda. Hai visto che problema? Ripeto, qui è un casino salirsi su, capito? Che non c'è uscita, bisogna aprire proprio il tetto, togliere le tegole, spostare le tegole. Come ci sono quelle tegole finte, no? No, sono tegole vere, sono tutte legate a, come si dice, col fil di ferro, vai. Mai, quando mai devono fare una cosa del... è un tetto che c'ha tanti anni, anzi è fatto bene come tetto, è in legno, però è fatto bene. Io ci passeggio sul mio tetto, te l'hai fatto afferrare, c'è la porticina, prego la chiave e tranquillamente. Magari. Poi il tetto è fatto a catrame con la ghiaia sopra, per non volare il catrame. Solo per quello, anche non quella ghiaia, quella leggera, come si chiama. Serve anche per isolare quello, no? E il ghiaino può usare, non lo so, ma esattamente. Comunque, mi ha fatto così. E ci puoi passeggiare, puoi montare l'antenna sul tetto, piattarla direttamente come ho fatto io, sul tetto, puoi stirarla sotto pure montata. È tutta una cosa più facile, dai. Ci vuole una scala lunga perché io l'ho messa nel corso della cabina dell'ascensore. Una scala lunga che adesso è stata da l'uccidere, infatti io la dovrei comprare da lui. La scala, sì. E beh, lì hai sfruttato addirittura la tromba dell'ascensore, quindi è ancora più alta. Sì, vabbè, il palazzo è alto, io non l'ho messa tanto. Ho messo un palo 8 metri con la 85, l'altro l'ho lasciato come anima dentro. Il palazzo è alto, mi hai detto? Sì, il palazzo, sì. Ma tanto alto. C'ha 5 piani più avanzato, di platico, là. Lì, a voglia, dai. Non c'è bisogno di alzare molto. L'85 metri, intanto per superare anche la televisione. E non disturbi l'antenna di fronte, diciamo, c'è il televisore di una tipa che abita a fianco a me, dai. Lo so perché a volte mi chiamo per sistemarglielo perché perde i canali ed è proprio dietro la mia antenna. Vabbè, ma metti la sul tetto, dai, non rompe le scale. Cos'è? No, no, è grande, è grande. Penso quasi sui 90, 86, 87. Stavo dicendo a Carpala. No, oh, qui sono tutti grandi. Sono tutti grandi. Qui ho preso tanti anni fa e adesso sono tutti anziani. Qualcuno non c'è più. Ma allora ho parlato meglio. Eh sì, questo c'ha parecchi anni. Vedete che te l'ha riscattato, lui. Io ho capito, quello di fronte a dove c'erano seduto prima, il garage di Russi, al mercato. No, quello è più giù, io sono più verso il bar Giamaica. Capito. È curvone. Sono prima del curvone lì. Io ho capito cosa sta parlando, ci abitava Guerrino lì. Lui ho comprato da la suocera di mio ex principale, praticamente, me l'aveva sempre promessa, io mi sia venduto la casa, la vendo a Franco, a signor Franco, e poi non si decideva mai, alla fine stavo comprando alle punti, lui ce l'ha chiamato proprio il giorno prima che io dovessi fare il compromesso lì alle punti, e anzi con meno soldi ho preso questa che è grande come casa, quella era piccola, mi sembra fossero sui 90 metri quadri. Va, riprendo il microfono io e vi saluto, dai che vado, devo scaricare la spesa e mi devo spostare da questa casa da un'altra casa e devo anche cenare, perché ho fame. Ciao, buona serata a tutti e buona cena quando la fate, ciao. Ciao, buona scarica. Oh, Franco, stavo dicendo, quei garage che ci sono lì, io adesso non so esattamente se abiti prima, dopo, eccetera, eccetera, ma ci sono quei garage con quelle discese, ce ne presenti. Io in una di quelle discese mi sono combinato con la bicicletta senza freni, ho frenato con il piede la rotella da parte, mi si è girata e mi è entrato il freno nel ginocchio, mi ha fatto un buco allucinante. Sì, ho capito, non abito lì, però ho capito quelle discese lì. C'è il tipo che fa anche infissi in alluminio, se non sbaglio, lì, da quella parte lì. Oh, voi strampate, ci hanno preso anche io in bicicletta, ragazzo. Sì, ma io l'ho presa brutta, eravamo in due, che siamo tutti due propriani. L'altro va per la sbattata quello di dietro. Come ho frenato, si è puntata la volta, si è girata. Ne ho preso una volta, non è che la mia bicicletta, era di un mio amico, nuova nuova. Sono andato a finire questo cunettone in cemento che era appena fatto, era appena disarmato, mi sono proprio consumato, strisciando, la sella tutta consumata, non c'era più. E io già adesso fa qualcosa, il codo di cemento. Ti ricordi quando la punti punti avevamo fatto il codolo proprio lì, di fronte a Biacchiarini, che era tutto un senso, prima di fare l'altro. Che avevamo messo tutto quanto a un senso, che stavano allargando la strada. Questa macchina mi ha frenato di colpo, c'è con la moto, l'avevo cambiata da poco la moto, ce l'avevo nemmeno un mese. E questa qui mi ha frenato di colpo, io freno, non conoscevo bene la frenata di quella moto, il cazzo ha frenato di colpo, mi ha pizzato, mi si gira la moto, il cazzo si è andato a sbattere col fianco sul cutolo, il cazzo è uscito un ematoma grande dalla faccia, dietro la schiena, insomma, se non mi sa fatto questa cosa si è assustato. Io la sera di ieri un tipo mi aveva frenato di fronte a me, davanti, l'ho tamponato e quella moto mi ho spezzato la gamba in due pezzi, perché praticamente è andata a sbattere la gamba al paraurti e si è rotta in avanti, capito? No, io meno male, la moto lo sai così, come ha pizzato, mi si è girata la moto va ferma, ma pesava 200 kg, perché sono venuta, non ce l'ho più. La ferma mi è caduta anche addosso, oltretutto. Quindi ti puoi immaginare, sono andato a lavorare, questo mio collega mi ha detto no, non mi dire che cosa sei caduto in moto, c'è su come sei, vattene via, vattene a casa, cazzo di ematoma che c'ha. E la vita principale era no, vattene a casa, fatti vedere, se no ti chiamo l'ambulanza perché sei in condizioni spietose. Cazzo sono andato a lavorare, non so cosa sono assustato. C'è su l'ematoma così fatto, dice non l'avevo mai visto. Ah, chiedo scusa Luca che non ho salutato. Luca, ci sei ancora? Mi dispiace, pazienza. Chiedo scusa la prossima volta. Non c'è problema, Luca, non c'è offesa. Ti stavo dicendo... quello lì lì è stato uno dei mattoni che si chiama Maria. Per assumersi, sa quanto c'è un mese, è stato viola, già lì il piccolo. Lei una volta aveva rotto il vetro della macchina, ero senza cinture, quel tipo mi ha preso frontale in una salina lì andando verso questo marchetto, era saltata, questo tipo si è messo a sorpassare un motorino e mi ha preso in pieno frontale. E quindi ho bucato il vetro col nasino. Meno male che non ti sei fatto altro. No, no, io c'avevo un Passat, quindi un macchinone enorme, senza guarda, senza... cioè quelle cinture non me ne sei neanche accorto, sì, la macchina un po' si è ammaccata la parte, l'angolo mio sinistro, per adesso non c'era nulla la macchina. Un Opel Kadett si è piegata in due, la sua capota toccava i sedili, non riuscivamo a togliere da dentro. Ma era ebbene. No, no, due anziani, due signori anziani, era marito e moglie, poi dietro era pieno di bidoni di gasolio, ma domani erano solo esplosi. C'è un amico mio, è stato in campagna lo stesso, mio padre stava tornando e cosa, questa macchina era veloce, non ci ha fatto frenare, ha patinato e pure abitato in pieno. Ci ha fatto 6 mesi di ospedale, quando è ritornato andava a lavoro e l'avevano licenziato. Maledetti. E poi queste taline è un casino perché mi sembra sono al 50%. E mi sa che sono stradine private, quindi non intervengono manco. Penso che la legge intervenga in queste stradine private, a meno che ci scappi il moto, qualcosa del genere, o per il tigrame, ma queste strade private manca assicurazione private, infatti molta gente dice diciamo che l'abbiamo avuto lì l'incidente perché questa strada qua è privata e loro non ti pagano le strade private. No, non è che fosse privata, che la strada è una strada pubblica, quella che va da, diciamo, da Liputi fino a mia vede Platamona, mia, quella dei suoi salesiani. Lì, quella strada lì è successa, era già asfaltata, quindi. Però non era una strada importante, quindi sono al 50%, comunque l'assicurazione paga, eh. Ma lì la macchina non ci passa, si tocca anche gli specchietti, mi fa. No, no, adesso vabbè, adesso l'hanno allargata, ma prima avevano fatto dei pasticci tipo di cordo in cemento, destra e sinistra, e va, pasticci ne hanno fatto la strada lì. Andava a vedere, io vi saluto, non so se ci sia Natalino ancora l'ascolto e tutti gli altri, che stanno a portare il cane, va. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene e buon continuo se lo fai con qualche altro, vai. Se no buona serata. Ehi capo, no, anche io vado a mangiare una cosa che ho fame, salendo un po' di albiocco, sto sbadigliando come un demonio. Dai, alla prossima canzone, dai, mi raccomando. No, non è canto più, vai, ma avete umiliato. Vai, hai fatto cantare anche mia moglie, figurati. Cosa? Stava cantando anche mia moglie. Niente allegra di una lista. Allora, ti ha sentito anche lì venuta qua, ha scacciato il PDT, anche lì stava cantando insieme. E ha fatto bene, a me l'ha avuto l'accompagnamento. E fai vedere, guarda che avevo l'accompagnamento. Vabbè, dai, ciao a te, ciao a tutti quelli che sono all'ascolto. Ma è un po', Natalino, ci sei? Prossima capabilità, Natalino. Ci sono me, ancora per un pochino, poi me ne vado a pappare anche io. Io sto già andando, sto sbadigliando, sono stanco, mi sa che poi mi riposo un po', se no domani al lavoro no, non reggo, riprendi qua. Oggi ti sento a 7. A me? No, sono andato a portare il cane e mi sono entrato adesso. Poi 8:30 c'è la partita, intanto però piano, quindi mamma mia, via. E niente, no, adesso sono qua, già trovato, c'ho un po' di mal di gola e non voglio sforzare a parlare molto, sia che poi domani c'ho qui senza voce. Ah, ok. Andare. Già non vi ho seguito, adesso sono andato a portare il cane, mi sto entrando adesso. Sono tutto un giubbotto, ho sollevato il volume. E ho sentito a te che stavi andando a portare il cane. Che Anna stava cantando perché tu hai messo. Ti sei messo a cantare e boh. Non c'è nessuno per attirare. Se così almeno mi criticano quando canto, entra qualcuno. Ma c'hai karaoke così davanti, stavi leggendo? No, c'è il computer, era il computer, no? l'aiuto come poco fa. Per quello che a me mi piace andare in locali dove si canta, perché io so cantare, non me la faccio più dare. Se non c'ho quella voce o cosa, mi piace cantare. Canta che ti bacia. Mi confesso mia figlia che canta bene. Oh, e io c'ho Filippo che canta un bel. Io c'ho il gatto. Sì, mi sono pure quello che canta di questo. Canta di chi c'ho la gola, dai. Avevi la gola e canta la dieta. E vabbè, il canto deve nascere, se no fa cantare come cantava Nicola Di Bari, meglio nuta. O Peppino di Capri, mamma di tutti. Vedi, Claudio Villa era la chiave, non piaceva, però era una bella voce, anche Albano ha una bella voce, anche se a me non è un genere che piace. No, ma Claudio Villa è mitico. Albano, Albano, va bene, Peppino di Capri, perché il champagne. E allora hai detto gli annacci. Chi ce ne fa vedere? Chi c'è proprio? Mamma di Dulci. Vengo anch'io, Raduna. Vengo anch'io, Raduna. Ma perché perché no? Che idea. Io. Va bene, Franco, dai, non ti trattengo. Tu vai perché ero bene che c'è l'otto passati. Ci sentiamo dopo, se coincide, altrimenti alle prossimine. Già sono qua, fra. Cazzo, mangio qualcosa, poi non penso di riprendere. Boh, vedo un po', dai. Un abbraccio a tutti. Ciao, riprendi qua. Ciao. Ok.